Yesterday we talked about all the hindrances that we have to work with. Ieri abbiamo parlato degli ostacoli con cui dobbiamo lavorare. But the other side, of course, is the beautiful mind. E l'altro lato, naturalmente, è la mente buona, bella. So there are beautiful states of mind, states of heart, which are specific to the practice. E quindi ci sono degli stati mentali positivi che sono specifici per la pratica. So that's what we'll discuss tonight. That's what we'll discuss tonight. Ah, e quindi li discuteremo stasera. And on Friday we'll discuss those beautiful states of mind which we need for social interaction. E venerdì discuteremo quegli stati mentali di cui abbiamo bisogno per l'interazione sociale. So now we said last night that we don't have free choice. E quindi ieri sera abbiamo detto che non abbiamo il libero, free will, excuse me, il libero arbitrio, la libera volontà. And we think we have a choice. Noi pensiamo di avere una scelta. But of course, if you know where you're going, then there's no choice, is there? Però se si sa dove si deve andare, in realtà non c'è scelta. I mean, at first when you decide to go on a walk, you might look at the map and various walking books about walks. E all'inizio quando si vuole fare una camminata si può guardare una mappa o anche libri riguardo ai percorsi. But once you've decided, then the path is delineated for you. Ma una volta che si è deciso, il cammino è delineato per voi. So in a sense we don't have a choice. E quindi in un certo senso non c'è scelta. We have to work with our defilements to slowly wear them out. Noi dobbiamo lavorare con i nostri inquinanti mentali per piano piano per farli andare via. And to develop those qualities we need to become liberated. E per sviluppare le qualità di cui abbiamo bisogno per diventare liberati. So the Buddha has delineated that path very clearly. Il Buddha ha delineato un sentiero in modo molto chiaro. There's a writer whom you may know called Lewis Carroll. He wrote books for children. E Lewis Carroll ha scritto un libro per bambini. Alice Through the Looking Glass. Alice Through the Mirror. Alice attraverso lo specchio, sia in italiano. So he said, if you don't know where you're going, lui dice, se non sai dove andare, any road will take you there. Qualsiasi strada ti ci porterà. So you can end up anywhere. E quindi puoi finire dovunque. Here we have the Buddha saying, well, if you follow this path, this is where you end up. E invece c'è un detto buddista che se tu segui questo sentiero, qui è dove finirai. It's called, the path, Magga. It's the path, the Eightfold Noble Path. Il sentiero, in pali si dice Magga, e si parla dell'ottuplice sentiero. So the metaphor works for us because we're on a journey, eh? E quindi c'è la metafora del viaggio. So what we need to do is, what are these spiritual qualities that we need to develop? E quindi quali sono le facoltà spirituali di cui abbiamo bisogno e dobbiamo sviluppare? So on one side he talks about the five spiritual faculties. Da un lato lui parla delle cinque facoltà spirituali. And then he talks about the seven factors of enlightenment. E poi parla dei sette fattori dell'illuminazione. And these of course fit in together, you know. E queste vanno d'accordo. Sì. So the seven spiritual faculties are faith. Allora, cinque facoltà spirituali sono fede, concentrazione, awareness, consapevolezza, effort, sforza. Questo viene sempre tradotto come sforzo. Io preferirei usare energia in questo contesto. Ecco. Perché retto sforzo mi sembra proprio l'opposto di quello che si vuole poi andare a dire. This is my idea. Ah, very good. Sì, buona idea. Va bene. I never argue with the translator. Non discute mai coi traduttori. Wisdom. E saggezza. Mm. And the seven faculties begins with awareness. Queste facoltà iniziano con la... The seven factors of enlightenment. Ah, i seven factors. Mm. I sette fattori dell'illuminazione iniziano con l'awareness, cioè la consapevolezza. Mm. And then you have pairs. E poi hai delle paia. Paia. Come si dice? Delle coppie. You have concentration and effort. Abbiamo la concentrazione e l'energia. You have interest and calmness. L'interesse e la calma. And you have equanimity and investigation. E equanimità e investigazione. Ah. So, faith is better... Sada is better translated as confidence. Mm, I agree. Ah. Wonderful. Sada, il Pali Sada, è meglio che fede, si traduce come fiducia. Ah, because the Buddha doesn't want us to believe anything. Perché il Buddha non vuole che noi crediamo in niente. Ah, because when you believe something, in a sense, you stop yourself from experiencing it. Perché quando credi in qualcosa, in un certo senso, ti impedisci di farne l'esperienza. Ah. So, you have to be careful with the act of belief. Quindi attenzione con l'atto del credere. Ah. If you think about, well, I've read about the teaching. Se pensi, bene, io ho letto degli insegnamenti. And I've done a certain amount of practice. Ho fatto una certa quantità di pratica. And so there's confidence in me that what I'm doing is leading me to a better place. E quindi in me c'è fiducia che quello che faccio mi porterà in una situazione migliore. Ah. Because the process of investigation is the process of liberation. Perché il processo di investigazione è il processo di liberazione. Mm, the liberation from delusion. La liberazione dall'illusione. Ah. So faith has, we can say, two qualities. Fede ha due qualità. Ah, sorry, confidence. Confidence. Two qualities. Fede, fiducia. Fiducia ha due qualità. The first one is an intellectual understanding. Il primo è capirlo in modo intellettuale. Yeah. So first of all we hear or we read something that the Buddha has said. E quindi prima si ascolta o si legge qualcosa che ha detto il Buddha. But this doesn't become our own intellectual knowledge unless we think about it, talk about it. E questo doesn't come. No, it doesn't become our intellectual knowledge. No, non diventa una nostra conoscenza intellettuale. Unless we think about it. A meno che non ci si pensi o se ne parli. Ah. But even then it remains conceptual until, of course, we actually experience it in our practice. Ma anche a quel punto rimane concettuale, a meno che non si faccia diretta esperienza con la pratica. So, when the Buddha says desire, wrong desire, is the psychological cause for suffering, quindi quando il Buddha dice che il desiderio sbagliato è la causa psicologica della sofferenza, it doesn't really affect us until we really perceive that. No, questo non modifica come veramente noi percepiamo questo. It doesn't really affect us, is that right? Affect us. Yeah, it doesn't really affect our lives until we actually experience it. Sì, si è fatto, ok. No, non influisce sulle nostre vite. Unless we directly sì, a meno che noi non ne facciamo esperienza diretta. Ah, okay. But the other quality of confidence is a heart connection. L'altra qualità della fiducia è una connessione del cuore. Mm. And this really is difficult for us coming new to the Buddha's teachings. This is difficult for us. È difficile per noi coming as we do as converts to Buddhism. This is difficult. Okay, this is difficult for us. Questo per noi è difficile. Because we are new to Buddhism. Perché per noi il buddismo è una cosa nuova. So remember, if we were brought up Christians, perché noi siamo stati cresciuti in un ambiente cristiano. Even from a little child, you begin to develop a relationship with Jesus. E quindi fin da bambini piccoli abbiamo cominciato a sviluppare una relazione con Gesù. So it is with Buddhists in the East. They have a relationship with the Buddha, which is a heart relationship. Nello stesso modo nell'Oriente c'è questa connessione col Buddha, che è una connessione del cuore. Yeah. I think the easiest way for us to form some sort of relationship with the Buddha is through gratitude. Credo che per noi il miglior modo di formare una relazione con il Buddha è quello della gratitudine. And this gives, as it were, our faith a little bit of juice. That's all. E questo dà alla nostra fede, fiducia, un po' di succo. Succo. Sugo. Sugo, vabbè. but it's not necessary. Non è necessario. You don't have to have it. But for some people who are more heart-based, that's the way into more of a feeling confidence with the Buddha Dhamma. E per certe persone questo è il miglior modo di avere questa sensazione di fiducia nel Buddha Dhamma. This confidence allows us to investigate the Buddha's teachings. Questa fiducia ci permette di investigare gli insegnamenti del Buddha. If it's not there, then you have doubt. Se non c'è, c'è il dubbio. So we talked about skeptical doubt. Abbiamo parlato del dubbio scettico. So this to actually put one's confidence in the Buddha undermines skeptical doubt. To put one's confidence in the Buddha. Confidence in the Buddha. Se per avere la fiducia nel Buddha bisogna togliere il dubbio scettico. Okay. That'll do. So I forgot my train of thought. My fault. No. So this is how wisdom is locked into confidence. Questo è come la saggezza è incastrata con la fiducia. The one supports the investigation, you see. una supporta l'investigazione. Okay. So then we have this combination of concentration and effort. Poi abbiamo la combinazione di concentrazione e energia, sforzo. Yeah. Concentration is best developed when you're just resting your attention on an object. La concentrazione è sviluppata nel modo migliore quando si fa riposare l'attenzione su un oggetto. Mm. So, on things like the breath or the footsteps, which are neutral. E quindi oggetti come il respiro e i passi, che sono oggetti neutri. Mm. Which anybody else in the world would see as a very boring thing to do. E chiunque altro li considererebbe delle cose molto noiose da fare. Ah, if you say to an ordinary person, let's watch the breath, they se voi dite a chiunque osserviamo il respiro, vi diranno. So it's not, you're not forcing, you see, you're not forcing your attention onto the object. Allora, non è che non si deve forzare l'attenzione sull'oggetto. So, perhaps we have, you know, memories of childhood where we had to learn something for school and you have that sort of over-effort. Sì, ecco, forse possiamo avere dei ricordi da bambini quando si doveva imparare qualcosa per la scuola e c'era questo tipo di super sforzo. Ah. So this what that does is it creates restlessness. E questo ciò che produce è l'irrequietezza. Ah. So if you are resting your attention on the breath, se invece stai come dire riposando con la tua attenzione sul respiro, and generally speaking you feel calm, e parlando in modo generale ti senti calmo, and then suddenly you begin to feel this extra energy which is making you restless. E a un certo punto cominci a sentire questa energia extra che ti fa diventare irrequieto. Ah, then you have to recognize that something is coming into the practice. Devi riconoscerlo come qualcosa che sta entrando nella pratica. And you're trying to achieve something. E tu stai cercando di ottenere qualcosa. Yeah. We're not having the patience to let the concentration grow by its own method. Se non hai la pazienza di far crescere la concentrazione nel suo modo. In its own way. So this is another teaching of not self. It's not under my direct control. Questo è un altro insegnamento del non sé. Di diminuire il controllo diretto. Yeah. It's not under my direct control. All I can do is place the attention on the object. Tutto quello che devo fare è mettere l'attenzione sull'oggetto. Mm. And then that process happens itself. E da quel momento il processo si crea da solo. Mm. This also comes up with when we're investigating. E questo succede anche quando stiamo investigando. So when we're there and we're beginning to investigate what we are experiencing, quando iniziamo a investigare ciò che entra nella nostra esperienza, then if there is some idea of achieving something, then that restlessness will come. Se c'è qualche idea di ottenere qualcosa, allora arriverà la irrequietezza. So the effort is just to keep the attention on the object. Quindi lo sforzo è solo tenere l'attenzione sull'oggetto. And the effort in our vipassana is just to keep up a sense of curiosity. E quindi lo sforzo nella vipassana è solo di mantenere un senso di curiosità. And for those of you who've studied Zen, per quelli che hanno studiato lo Zen, this is what they mean by no effort. è quello che loro intendono con nessuno sforzo. Ah, so this was often misinterpreted in those early years. E questo negli anni passati, nei primi anni, era spesso interpretato in modo sbagliato. So you made no effort and the enlightenment would come. Cioè che tu non facevi assolutamente nessuno sforzo e arrivava l'illuminazione. Ah. But what it means is that you're not putting any extra effort caused by some idea of where you ought to be. E quello che vuole dire veramente è che non stai mettendo dello sforzo extra che è causato da qualche idea di quello che tu vuoi. Mm. There was a monk called Sona. C'era un monaco chiamato Sona. If I remember rightly, he was related to the Buddha. Se mi ricordo bene, era parente del Buddha. Mm. And he was having great difficulty with concentration and effort. E aveva molte difficoltà con la concentrazione e con lo sforzo. Mm. So the Buddha, when he met him, told him that it was like tuning a string instrument. E quando il Buddha lo incontrò, gli disse che era come intonare uno strumento. Mm. So in those days the vina is like a guitar. C'era uno strumento che era tipo una chitarra, vina si chiamava. And he said, you know, it's not too tight and not too slack, just to get the right note. E lui gli disse, per ottenere la nota giusta non devi essere né troppo tirato né troppo molle. So you can see there always has to be this this awareness of the effort you're putting into something. Quindi ci deve essere sempre questa consapevolezza della forza che tu metti nel fare qualcosa. So if everything is calm within you. Se dentro di te tutto è calmo, and you're just placing the attention on the breath, e stai solamente mettendo l'attenzione sul respiro, and then you find yourself getting restless, e ti ritrovi irrequieto, then it's too much effort. Allora vuol dire che c'è troppo sforzo. If everything is calm and you're just placing the attention on the breath, se tutto è calmo, stai solamente mettendo l'attenzione sul respiro, and you fall asleep, ti addormenti, not enough energy, vuol dire che non c'è abbastanza energia. Ah, so the two things can happen, E le due cose possono succedere. Now, interestingly enough, if your concentration is really very good, questo è molto interessante, se la tua concentrazione è veramente buona, really good, I mean, you know, you can keep your attention very steady. Se, cioè, voglio dire che puoi tenere la tua attenzione in modo stabile, and the energy drops, e l'energia diminuisce, you go into a state of unconsciousness, finisci in uno stato di incoscienza. But from everybody else's point of view, ma visto dal fuori, dal punto di vista di chiunque altro, you are sitting like a perfect yogi. Stai seduto come un perfetto yogi. Ah, strange, eh? Strano, eh? So, the energy of the concentration is keeping you in that posture, right? But of course, in a state of unconsciousness, nothing happens. Quindi l'energia della concentrazione ti tiene fermo in quella postura, però se sei incosciente non succede niente. So you find this in all religions, eh? Questo si trova in tutte le religioni. Even Saint John of the Cross in his book warns the beginner about this state of unconsciousness. Anche San Giovanni della Croce ammonisce i lettori riguardo a questa possibilità dello stato di incoscienza. Ah, because they might think that this is nada, that this is an experience of God. Perché potrebbero pensare che è un'esperienza di Dio. Ah, and even in Buddhism, some people, when they hit that place, they actually think that that's nirvana. E anche nel buddismo ci sono persone che quando finiscono in questo posto pensano di essere nel nibbana. Yeah. See? but it's not. Ma non è così. Sometimes you hear this word blackout. Si sente parlare come blackout. Have you heard that in some circles? Blackout? Si. Well, it is a blackout. Interruzione della corrente. Ah. Blackout. There's a tale of a Hindu saint. C'è un racconto che viene da una setta indù. Who asked for some water. Questo chiese dell'acqua. Yeah. And then he immediately went into this state. E poi immediatamente entrò in questo stato. Yeah. 10 years later. 10 anni dopo. He wakes up. Si risveglia. And he says, where's the water? E dice, dov'è l'acqua? Which is telling us that states of unconsciousness are taking us nowhere. E quindi questo ci insegna che gli stati di incoscienza non ci portano da nessuna parte. Of course, if it's a natural sleep cycle, that's not a problem. Se è un naturale ciclo di sonno, non c'è problema. So then we move on to interest and calmness. Ora ci muoviamo in un'altra coppia, l'interesse e la calma. So now some of you will see it translated as joy. Qualcuno può averlo trovato tradotto come gioia, sì, joy. Vero? Those who know, no? No, nobody knows the seven factors of enlightenment. Who's there? Bojangas. So, interest is that sense of curiosity. L'interesse è quel senso di curiosità. And it's a joyful place. È un posto gioioso. Ah, consider when you've been interested to find out something. Pensate a quando siete interessati a scoprire qualcosa. Mm. And just recall how there's a lot of joy in that state. E ricordate come c'è uno stato di gioia in quella situazione. Mm. So now, when we're sitting, you see, sometimes you have to cajole yourself, sometimes you have to encourage yourself to raise this sense of curiosity. E a volte, stando seduti in meditazione, bisogna incoraggiarsi a avere questo senso di curiosità. Ah, if you remember your interest when you first started meditating, when you were introduced to it. Se ricordate qual è stato il vostro interesse quando la prima volta che vi hanno parlato della meditazione. Yeah, when you practice. E quando l'avete praticata per la prima volta. So this is called beginner's mind, you see. Questa è la mente del principiante. Ah. Somehow we have to keep finding our way back to that original mind. A volte bisogna cercare di ritornare a questa mente originale. And at some point we talked about the child and the way the child looks at something. In qualche momento abbiamo parlato del modo in cui i bambini guardano le cose. Mm, just that natural interest. Con quell'interesse naturale. Ah. So, especially those of you who've been practicing a long time, we can fall into this habit of meditating. E specialmente quelli che meditano da molto tempo si può cascare in questa abitudine del meditare. And you can sit there and sometimes somebody said there's Bollywood. Sì, ci si siede, qualcuno dice che Bollywood. Bollywood? No, oh, Bollywood. Bollywood, ecco, ah. Sì. Bollywood. The film. Ah. Sì. You know, we come off it, you see, back to the breath. Hmm. E noi we come off it. Huh? We come out of it. Usciamo da questo stato. And we come back to the breath. E torniamo al respiro. Yeah, but there's no There's no effort. Ma non c'è energia. There's no real interest. Non c'è vero interesse. No, we're just fulfilling a rota, 1 hour meditation. Trick. Sì, stiamo solo mettendo la crocetta. Un'ora di meditazione. And this goes on, and then after some time we think, I get nothing from this meditation. E se questo continua, dopo un po' di tempo si può dire, non succede niente nella meditazione. So then you have to reflect upon your attitude. Allora bisogna riflettere sulla propria attitudine. And it's good to remind ourselves that 5 minutes of good practice. È bene che ci ricordiamo che 5 minuti di buona pratica is worth 1,000 years of useless practice. Vale quanto 1,000 anni di pratica inutile. So, you know, it doesn't matter how long we sit, but we have to give it some commitment. Sì, non importa quanto tempo stiamo seduti, ma bisogna metterci un po' di commitment, di impegno. So sometimes it's good to, as it were, start again. A volte è bene di fare come se iniziassimo di nuovo. To not meditate for 1, 2, or 3 days, and then to start again with little bits of meditation, and to encourage yourself to grow. Non meditare per qualche giorno, 2 o 3 giorni. No, qualche, 2 o 3. 2 o 3 giorni. Qualche, 2 o 3. E poi ricominciare a meditare e metterci qualcosa di nuovo. Nureyev, the very famous Russian ballet dancer of the 60s and 70s. Nureyev era il famoso ballerino russo degli anni 60-70. He said, if he didn't practice one day, that's fine. Si dice che se non si allenava, praticava per un giorno, andava bene. Sì. 2 days, he felt it. 2 giorni lo sentiva. Ah. 3 days, everybody else did. Con 3 giorni, tutti gli altri lo vedevano. So, 2 or 3 days, basta. And then to begin small again, you see, just 10 minutes, 20 minutes. E poi ricominciare dal piccolo, quindi 10-20 minuti. And you'll see your interest comes back. E vedrete che l'interesse ritorna. And of course, doing retreats and all that, they're also helpful. E anche può aiutare a fare ritiri. So again, interest is supported by calmness. E quindi ancora l'interesse è aiutato dalla calma. And again we have these 2 problems come up. If we are curious about something. Allora, quindi anche qui ci sono 2 problemi che possono sorgere. Se noi siamo curiosi di qualcosa, In a very subtle way we can begin to look for something. In un modo molto sottile possiamo cominciare a cercare qualcosa. So this is quite difficult. È piuttosto difficile. Because the Buddha says we should be aware of desire, wrong desire. Perché il Buddha ha detto noi dobbiamo essere coscienti del desiderio sbagliato. About process and impermanence. Riguardo ai processi e all'impermanenza. And this quality of not me, not mine. E questa qualità di non me, non io. So in a sense we have a direction. E quindi in un certo senso noi abbiamo una direzione. Sì. So how to distinguish looking at something without expecting anything and looking at something just as it arises. E come si può distinguere guardare qualcosa, come se non si aspettasse niente, yeah. E guardare qualcosa per vedere se insorge. Sì. You'll know that something is wrong because either you get frustrated. sappiamo che c'è qualcosa che non va, se diventiamo frustrati, Or you get bored, o diventiamo annoiati. So as soon as you get bored, you know you've been looking for something. E appena diventi annoiato vuol dire che hai cercato qualcosa. Ah, sì. And again, if there is too much excitement there, you'll get the restlessness. E al solito, se c'è troppa eccitazione, allora viene fuori l'irrequietezza. And if the calmness is too much, you fall asleep again. E anche qui, se c'è troppa calma, si cade nel sonno. Ah, so you can see, this is a tight rope. E quindi c'è una corda tirata. See? So, we shouldn't despair. Non dobbiamo disperarci. Sometimes I think Ajahn Chah said. E credo che fu Ajahn Chah che disse. He said when he's guiding meditators. Quando guidava i meditatori. He says a bit to the left, a bit to the right. Un po' a sinistra, un po' a destra. Just keep them on the right path. E tenetevi sul sentiero giusto. So we have these two qualities. So now we have concentration and effort. Quindi abbiamo concentrazione e sforzo. Sforza. We have interest and calmness. Interesse e calma. And now we have this equanimity which is balanced with investigation. E poi c'è l'equanimità che è bilanciata dall'investigazione. Now, it's the phrase is to investigate the teaching of the Buddha. E la frase qui è investigare gli insegnamenti del Buddha. Ah. So, this is specifically these three characteristics of existence. Eh? Che specificatamente sono le tre caratteristiche dell'esistenza. Ah. So, this equanimity, it's a place of really not knowing or not sure. Quindi l'equanimità è come un posto di non sapere o non essere sicuro. Sometimes it's defined as a balanced mind or balanced heart. A volte definito come una mente o un cuore bilanciato. So now, if you think of a judge. Giudice. Se pensate a un giudice. You don't expect the judge to be confused by the clever arguments of the lawyer. E non vi aspettate che il giudice sia confuso dalle abili argomentazioni dell'avvocato. You don't expect the judge to be influenced by the bellowing of the crowd. E vi aspettate anche che non sia influenzato dalla folla che fa casino. You don't expect the judge to feel hatred towards the prisoner. E vi aspettate anche, non vi aspettate che il giudice abbia odio per il prigioniero. You don't expect the judge to I've forgotten the fourth one. <It's gone. coughs> To be prejudiced, that would be it. Prejudiced against the prisoner. E non vi aspettate nemmeno che il giudice abbia dei pregiudizi contro il prigioniero. So you can see the position is aloof. It's above. Quindi la posizione deve essere al di sopra. Ah. And from a meditation point of view, you have to be careful that you're not holding on to a view. Da un punto di vista della meditazione, dovete stare attenti che non siete attaccati a un punto di vista. So this then begins to move towards belief. You see? Perché se no ci si comincia a muovere verso il credere, una credenza, un credo. So, yes, that's right. So it's a very strange place of not coming of not knowing and not having any feeling towards something. È come uno strano posto dove c'è questo non sapere e non avere sensazioni verso qualcosa. Without preference. Senza preferenze. Without prejudice. Senza pregiudizio. Without some form of acquisitiveness or greed or something. Senza nessuna forma di avidità o di desiderio. And without any form of aversion. Senza nessuna forma di avversione. Ah, so you can see that's quite difficult for us to develop. È piuttosto difficile da sviluppare. Mm. And this supports our ability to see things as they really are. E questo aiuta la nostra abilità di vedere le cose così come realmente sono. Otherwise, what we're looking at is biased. E se no, noi le guarderemo da un punto di vista. So, again, equanimity, you know you're not being equanimous. Allora, equanimità, tu sai se non sei equanime. When all the things that we've talked about, the negative things, begin to manifest. E cioè quando cominciano a manifestarci tutte le cose negative di cui abbiamo parlato. Ah, frustration, boredom, etc. Frustrazione, noia, eccetera. Because equanimity is sustaining the rest. Perché l'equanimità sostiene il resto. Just going to a social virtue. Going. Talking of a social virtue. Ah, parlando di una virtù sociale. So we have love. Abbiamo l'amore. And the obvious enemy is hatred. E il nemico evidente è l'odio. And the near or the subtle enemy is attachment. E il nemico vicino o sottile è l'attaccamento. Amico. Enemy. Enemy. It's equanimity that keeps you steady on just love. E l'equanimità ti tiene stabile sull'amore. Ah, you see, because if you're equanimous, calm, then you can see that other things are happening. Se sei equanime e calmo, puoi vedere che come succedono le cose. Okay. So now we have these three pairs. The investigation is of course into the three characteristics. L'investigazione è naturalmente nelle tre caratteristiche. And this is at the deep level the wisdom of the five faculties. E a un livello profondo corrisponde alla saggezza delle cinque facoltà. Okay. So now we have finally awareness. E abbiamo alla fine la consapevolezza. Yeah, right awareness. La retta o giusta consapevolezza. Ah. So now, where are the seven factors of enlightenment when you're agitated? Allora, dove sono i sette fattori di illuminazione quando siamo agitati? Where are the seven factors of enlightenment when you feel depressed or angry inside you? Dove sono i sette fattori di illuminazione quando ci sentiamo arrabbiato o depresso dentro? So, when we access that position inside ourselves of the observer, the feeler, the one who knows. Quando prendiamo posizione dentro di noi come l'osservatore, colui che sente, quello che vuole sapere. Ah. What we've done is we've removed this quality of awareness out of its confusion with this psychophysical organism. Quello che facciamo è togliere questa qualità di consapevolezza dalla confusione dell'organismo psicofisico. So all those factors come back into the awareness. tutti questi fattori a questo punto ritornano dentro la consapevolezza. So it is the awareness itself which has the concentration. È la stessa consapevolezza che ha la concentrazione. It's the awareness itself which is imbued with energy, which is, has the energy. È la stessa consapevolezza che è nutrita dall'energia. Ah. It's the very same awareness which has that quality of interest. È la stessa consapevolezza che ha la qualità di interesse. Ah, sati, panya. So the sati is the passive awareness, sati receiving. È la consapevolezza passiva, receiving, che riceve. And the intuition is the active part of grasping the object, understanding the object. E l'intuizione è la parte attiva di capire e afferrare l'oggetto. The interest, the curiosity, is within the awareness, the sati. La curiosità è dentro alla consapevolezza, dentro a sati. Ah. That's why if you were to choose one word which explains the process of liberation, it is that word sati, awareness. Se si dovesse scegliere una sola parola per spiegare il processo di liberazione, potrebbe essere sati, la awareness, la consapevolezza. Consapevolezza. So we can say that sometimes the heart mind, the emotional thinking mind, a volte la mente cuore, cioè la mente emozionale e pensante, sometimes mirror those qualities back to awareness. A volte riflette queste qualità dentro la consapevolezza. But it's when we're in that state of that observation post. Noi quando siamo in questo stato di nel posto dell'osservazione, And it is a steady observing, e c'è un'osservazione stabile, all those faculties are in the observing. Tutte queste facoltà sono nell'osservare, nell'osservazione stessa. And that's why in that position insights arise. Ed è questo il motivo per cui in quella posizione insorge l'intuizione, l'insight. In the opening part of the Satipatthana discourse, nella parte di apertura del discorso di Satipatthana Sutta, where the Buddha is describing how to meditate, lì dove il Buddha descrive come meditare, that particular discourse is known as the jewel of the collection. Questo particolare discorso è chiamato il gioiello della collezione. And he says, you train yourself by feeling the breath. E lui dice, ti alleni, ti addestri, seguendo il sentendo il respiro. You know it's a long breath or a short breath. E conosci che è un respiro lungo o un respiro corto. You can feel the breath. E puoi sentire il respiro. And then he says, you begin to observe that the breath is arising and passing away. E poi dice, puoi osservare che il respiro insorge e poi svanisce. And you keep doing this until there is enough sati panya. Intuitive awareness. E continui a fare questo finché c'è abbastanza satipanya, consapevolezza intuitiva. For insight to arise. Per far insorgere l'insight. Ah, sì? L'intuizione. Ah. So these two qualities always go together. Quindi queste due qualità vanno sempre insieme. That discourse, questo discorso, was taught to the ordinary villagers of Kurusadama. fu insegnato ai normali abitanti del villaggio di Kuru Sadama. He had been teaching there before. The village was, they say, close to modern Delhi. To modern? Delhi. Lui l'aveva insegnato già prima. Questo villaggio era vicino a quella che oggi è Delhi. And when he went back, he found all the villagers practicing what he had taught them. E quando tornò, trovò tutti gli abitanti del villaggio che praticavano quello che lui aveva detto. And he was greatly struck by that, and he taught them this discourse. E allora fu molto colpito da questo fatto e li fece questo discorso. The beginning of the discourse is Ekayano Maggo, which means this is the direct path. L'inizio del discorso è Ekayano Maggo, quindi significa il sentiero diretto. Mm. So, to people who had the time, like monks and nuns, per le persone di quell'epoca come monaci e monache, he taught jhana and vipassana. E lui insegnava jhana e vipassana. Yeah. So if you want to practice jhana and vipassana, it's good to become a monastic. E quindi se volete praticare jhana e la vipassana, è bene diventare monaci. Because the rules that we have means that you don't do anything. Perché con tutte le regole che abbiamo, questo significa che non si fa nient'altro. Non si fa niente. We can't work, we can't cook, we can't shop, can't do anything. Non si può lavorare, non si può far cucina, non si può andare a fare compere, non si fa niente. And so you just find your little hut and practice your Vi jam. Trovate la vostra piccola capanna e praticate. So that's what he did by establishing the order. He established the possibility for people to give their whole attention to this practice. E quindi questo è ciò che lui fece quando mise sull'ordine monastico, per dare alle persone una possibilità per praticare quello che lui aveva insegnato. And in a place like Burma, lay people will go on holiday to a monastery. In un posto come la Birmania, i laici vanno in vacanza nei monasteri. Ah, so when you say, where are you going for your holidays? They say, I'm going to the monastery. Se chiedete dove vai in vacanza, loro ti dicono, vado al monastero. Ah, strange, eh? Strano. But with the lay people, he gave this teaching of just pure vipassana. Ma con i laici dette quest'altro insegnamento della pura vipassana. Ah, sì. So, you know, what we are practicing, taught by the Mahasi Sayadaw, was specifically for people who are working in daily life. Quello che noi pratichiamo, così come è stato insegnato da Mahasi Sayadaw, era specifico per le persone che lavorano. And in a sense, he was... He and Ubakin, who started that tradition, were the two teachers who brought the practice into ordinary daily life for ordinary people. Yeah? E in un certo senso, lui e Ubakin, che era l'altro laico che insegnava questa pratica, sono stati quelli che hanno portato la pratica nella vita di tutti i giorni. Mm. Sì. So this was a revolution at the time. In quell'epoca è stata una rivoluzione. Ah, because the monks and nuns meditated. Perché monaci e monache meditavano. Ah, and the lay people fed them. E i laici li davano da mangiare. Those were the happy days. Ma nei bei tempi felici. So, If you can just think of those qualities, so a sense of confidence. Quindi se pensate a queste qualità, un senso di fiducia, which allows us to investigate without conditions, che permette di investigare senza condizionamenti, which does away with doubt, che away? Oh, does away. che fa andare via il dubbio. And then as we begin to practice, we bring up that sense of interest. E poi come iniziamo la pratica noi portiamo questo senso di interesse. And just generally feel calm about things. E in generale sentirsi calmi riguardo alle cose. By putting the attention just gently on the object, the rise and fall of the breath. E portare l'attenzione gentilmente sull'oggetto che è l'insorgere e svanire del respiro. Without any expectation. Senza aspettative. And then to begin to observe those three characteristics of existence. E poi iniziare a osservare le tre caratteristiche dell'esistenza. Ecco. I can only hope my words have been of some assistance. Io posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto per voi. That I have not caused even greater confusion. E che non ho causato una maggior confusione. By your careful development of the seven factors of enlightenment. E attraverso il vostro sviluppo dei sette fattori dell'illuminazione. And the five spiritual faculties. E le cinque facoltà spirituali. You will be liberated from all suffering. E sarete liberati da tutte le sofferenze. Sooner rather than later. Prima piuttosto che dopo. Sadhu, sadhu, sadhu. Very good.